Italia in controluce. Italia in controluce è l'approfondimento della redazione di Radio 24 sulla cronaca italiana, un programma condotto e coordinato da Daniele Biacchesi che racconta le piccole e le grandi storie d'Italia. Il caso del rapimento di un neonato all'ospedale di Nocera Inferiore fa emergere in modo grande il problema della sicurezza nelle strutture sanitarie. Il racconto di Maria Luisa Pezzali. L'incubo di tutti i genitori si è realizzato nell'ospedale di Nocera, dove la finta infermiera ha rapito un neonato. In piccolo, per qualche attimo o qualche ora, sono pochi quelli che non hanno avuto esperienza di questa angoscia estrema che interrompe il respiro, ferma il tempo e non permette più altri pensieri. Sono le parole con cui la scrittrice Isabella Bossi Fedrigotti, in prima pagina su Corriere della Sera, ha descritto l'angoscia dei genitori del piccolo Luca. Il bambino rapito a poche ore dalla nascita dall'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e ritrovato 10 ore dopo. Un'angoscia condivisa che fa i conti con l'incubo di ogni madre, ma che dovrebbe essere tenuta a bada dalle rassicurazioni sulla sicurezza negli ospedali, in particolare nei reparti maternità. Le telecamere di sorveglianza erano guaste da tempo, ha dichiarato il direttore sanitario dell'ospedale. Episodi come questi, anche se rari, non devono succedere, ci dice Francesca Moccia, coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanza Attiva. Nessun dirigente, nessun caposala, nessun medico, nessuno si è accorto che uno sconosciuto era nel reparto. Questo è inaccettabile, considerata appunto la delicatezza di questa tipologia di reparti ospedalieri. È un problema legato sia alla dirigenza sanitaria sia ai responsabili della sicurezza, che devono mettere in campo delle misure per tenere sotto controllo queste situazioni. Per Daniele Farina, responsabile del reparto di neonatologia dell'ospedale Sant'Anna di Torino, ospedale primo in Europa per numero di nascite, identificazione dei neonati e del personale sono le regole imprescindibili. Al momento della nascita c'è un sistema molto preciso di braccialetti, identificazione madre figlio e addirittura con una matita dermografica per scrivergli il nome sul petto. Questo per l'identificazione. Un bambino non si muove dalla camera se non è accompagnato dalla mamma o dal papà o da una delle nostre infermiere. Tutto il personale, medici compresi, è identificato, nel senso che sui camici, sulle magliette, sulle divise c'è divisione di appartenenza e nome di chi ce l'ha addosso, per cui non esiste che uno si mette un camice a caso e spacciandosi per qualcosa entri. Avete anche un sistema di telecamere a circuito chiuso interne? No, interno non l'abbiamo e non possiamo averlo, perché sarebbe una violazione della privacy spaventosa. Delle telecamere di sorveglianza sono messe nelle porte d'ingresso dell'ospedale. Nel caso di quello che è successo a Nocera, credo che la signora in questione sarebbe stata ripresa all'ingresso e all'uscita, ma nei reparti non esiste possibilità di mettere telecamere di sorveglianza, è fuori legge. Chiaro che questi episodi servono a riaccendere l'attenzione su questi particolari. Primo, mi vengono i brividi pensando ai miei 4.500 nati, no? Nel senso che vado a ricontrollare le procedure, che noi li abbiamo messi a punto, abbiamo la routine assistenziale, questi ci obbligano a rivedere se c'è qualcosa da rivedere nella routine in modo da essere ancora più attenti. Italia in controluce. Quanti sono i giornalisti che vivono sotto scorta oppure minacciati nelle zone di confine dove lo Stato è sostituito dalla mafia? Simone Spezia ha intervistato il giornalista e scrittore Walter Molino, che è autore di un libro chiamato Taci Infame. Il mio libro è un viaggio nelle periferie dell'informazione del sud Italia, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Ho incontrato una ventina di cronisti che sono accomunati dall'aver subito delle minacce, delle intimidazioni, per aver scritto semplicemente i fatti, per aver provato a raccontare la verità in luoghi in cui la verità spesso diventa un problema. Ci sono giornalisti dei quali sappiamo, come per esempio la Capacchione del Mattino, ci sono giornalisti dei quali non si sa quasi nulla. Ci sono molti giornalisti che, nonostante abbiano un'età, non siano più un'età giovanissima, rimangono comunque precari, collaboratori pagati 4 centesimi a riga, che però, ad esempio, hanno la responsabilità della cronaca giudiziaria di posti come Vibo Valentia o Gioia Tauro. luoghi caldissimi dove pestare i piedi alla criminalità, ai mafiosi, ai poteri criminali, non solo appunto dell'Ndrangheta, può costare molto caro. E sono tutti cronisti che lavorano con grande passione, ma anche con le spalle pericolosamente scoperte. Tra queste 20 storie che hai raccolto, ce n'è una o due che ti hanno lasciato il segno, ti hanno colpito in maniera particolare? Guarda, te ne cito due. Una è della cronista più giovane che ho incontrato. Si chiama Angela Corica, fa la corrispondente da Cinque Frondi, un paesino di 4.000 abitanti nei pressi di Gioia Tauro. E ha solo 25 anni, ha scritto, ha fatto una piccola inchiesta su una discarica comunale. E una notte le hanno sparato 5 colpi di pistola nel parabrezza dell'auto, parcheggiata sotto casa. Lei ha iniziato a fare la giornalista da pochissimo tempo, da meno di un anno. Si era occupata fino ad allora quasi soltanto di notizie quasi di colore, davvero dalla sagra paesana ai 20 anni del sacerdozio del prete locale. Appena si è occupata di una questione un po' più stringente che toccava degli interessi, sia pur piccoli e limitati, è stata immediatamente colpita. Un altro incontro molto bello nel mio libro è quello invece con un cronista più anziano, si chiama Dino Paternostro, è di Corleone, nella sua carriera ha attraversato tutta l'epopea dei corleonesi, dall'ascesa dopo l'ultima guerra di mafia fino al tramonto degli arresti di Rina e Provenzano, e lui mi ha raccontato che per darsi forza, lui e il suo piccolo gruppo di collaboratori hanno sempre fatto lo sforzo di pensare che invece che Corleone si trovassero a Stoccolma, nel senso che loro, oltre a raccontare le storie di mafia che finivano anche sulle cronache nazionali, facevano lo sforzo di raccontare anche, per esempio, episodi di microcriminalità che si verificavano a Corleone, infrangendo per esempio questa leggenda metropolitana per cui nei paesi a forte connotazione mafiosa la piccola criminalità o lo spaccio di droga sono inesistenti. Loro hanno toccato anche queste corde, mettendo quindi in crisi il consenso sociale locale dei mafiosi, e anche per questo lui è stato più volte colpito, gli è stata bruciata la redazione del giornale, gli è stata bruciata la macchina, ha avuto un'infinità di minacce, eppure lui a più di 60 anni continua a essere in prima linea e rappresenta oggi un esempio per tanti cronisti di quel territorio. La risposta dello Stato di fronte a queste minacce ai giornalisti c'è, non c'è? Perché noi abbiamo sott'occhio i casi eclatanti come appunto quello di Roberto Saviano, poi però la protezione nei confronti di questi giornalisti c'è. Mi raccontava un cronista di Filadelfia, un piccolo paese in provincia di Vibo Valentia, lui si chiama Antonio Sisca e ha poco più di 60 anni. Lui ha subito un'infinità di minacce. Quando sono andato a trovarlo avevo con me un plico di agenzie ANSA che iniziavano nel 92 e finivano l'anno scorso, auto bruciate, cartucce inviate per posta, una infinità di minacce e intimidazioni. Lui mi raccontava che in questo paese, Filadelfia, detto il paese della lupara bianca perché negli ultimi 10 anni ci sono stati quasi una quarantina di casi di lupara bianca, ci sono soltanto 3 carabinieri. E allora forse la risposta alla tua domanda ha molto a che fare con questo. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, l'archivio di tutte le puntate. Lo trovate sul nostro sito www.radio24.it, potete scaricare le trasmissioni in podcast. Radio 24 Italia in Controluce è il nostro gruppo su Facebook e la mail controluce@radio24.it. Alle 6:30 di domani torna Italia in Controluce con nuove storie.